sin ninguna sola. Da media vuelta, danza con duro, no te canses ahora, que tú solo empieza. Mueve la cabeza, danza con duro, la mano arriba. Thank you. americano. Quando si fa l'amore sotto la luna, come te viene in cave di I love you. Papà l'americano.